che sia bello lavorare, far l'amore, dove il morire sia volontà di un Dio. Vogliamo un mondo senza patrie ed armi, senza confini tracciati coi coltelli. L'uomo ha due patrie, una è la sua casa e l'altra il mondo, e tutti siamo fratelli. Vogliamo un mondo senza ingiusti sprechi, quando c'è ancora chi di fame muore. Vogliamo un mondo in cui chi ruba va in galera, anche se ruba in nome del Signore. Vogliamo un mondo senza più crociate contro chi vive come più gli piace. Vogliamo un mondo in cui chi uccide è un assassino, anche se uccide in nome della pace.